e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e benvenuti, siamo arrivati a venerdì, questa settimana eccoci. È scivolata via. Veramente volata, sì. Programmi per il weekend? Ho in programma una castagnata, se la tosse me lo permette. Forse più che una scorpacciata di castagne dovrei procurarmi, sai la storia della castagna matta? Certo. Quelle non commestibili ma belle lucide, che sono frutto dell'ippocastano e non del castagno, bisogna tenerla in tasca per avere sprigionati tutti i suoi effetti benefici, visto che mi sono dovuta arrendere all'antibiotico, come tu ben sai. Lunedì ne parlo dell'antibiotico, così brava, ripassiamo esatto. Un po' le regole e voi farete una castagnata, starete a casa, organizzerete un po' qualche cosa per la vostra famiglia, raccontateci i vostri weekend. Iniziamo la nostra rassegna stampa della salute con uno dei proverbi più noti: una mela al giorno toglie il medico di torno, che è un sempreverde. Ne conoscete altri? Potremmo, Deborah, provare a raccoglierli. Proverbi di cuore e di denari. Ottimo, mi piace. Fare un libricino, meglio un ebook per Natale. Brava, mi però piace. Noi dobbiamo avere la collaborazione dei nostri ascoltatori, perché dobbiamo scriverne tanti, almeno, io non dico 240, ma almeno 100. Almeno 100, ok, obiettivo 100, vai. Noi chiediamo ai nostri esperti di cuore e denari di commentare questi proverbi per vedere se hanno una validità scientifica, possono dare un'indicazione. Voi che dite da casa, 800 24 00 24, magari date la vostra adesione con un like sulla nostra pagina e poi ci organizziamo. Cogli la prima mela. E intanto, tornando alla mela, che è l'origine di tutto, quello che in tempi non sospetti la saggezza popolare aveva intuito, oggi viene confermato dalla scienza. E ad aggiungere un altro pezzettino, un altro tassello alle conoscenze già numerose su questo frutto, arriva un lavoro dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche, e in linea con noi abbiamo il dottor Angelo Facchiano, ricercatore CNR presso proprio questo istituto. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah. Allora, buongiorno. Questa è la mela è buona, bella, famosa e direi anche amica della salute. Insomma, certo. È un concentrato di antiossidanti, vanta anche proprietà antitumorali, in particolare nei confronti del tumore del colon retto. Insomma, dottor Facchiano, direi che i riconoscimenti a questo frutto non mancano, c'è una ricca letteratura a riguardo, ma nonostante questo la mela continua a stregare i ricercatori che evidentemente subiscono il fascino di questo frutto. Dottore, scherzi a parte, ci racconta la novità della vostra ricerca. Che cosa avete scoperto di buono e utile? Beh, dunque, come diceva, gli effetti preventivi sul cancro al colon da parte delle mele sono noti già da alcuni anni. Noi nel nostro studio abbiamo cercato di capire in dettaglio in che modo gli antiossidanti presenti nelle mele possono svolgere questa azione. Per spiegarsi in parole semplici, ecco, sì. Gli antiossidanti vengono generalmente descritti come gli spazzini che ripuliscono via dal nostro corpo alcune sostanze che, accumulandosi nel tempo, possono provocare dei danni. E quindi faccio un esempio riferendomi un po' a quello che succede ogni notte nelle nostre città. Noi la sera andiamo a dormire, ci sono i cassonetti pieni di rifiuti, poi la mattina dopo la città è stata ripulita, perlomeno si spera. Sì. E noi non sempre, devo dire, sì, dovrebbe beh, essere così. Diciamo che è quello che noi speriamo. Mm. E la gran parte di noi non è che si preoccupa più di tanto di che cosa è successo nella notte, l'importante è che la città sia stata pulita. Certo. Ovviamente gli addetti ai lavori devono andare a capire quali sono i modi più efficaci per effettuare questa pulizia, quindi quanti addetti servono, che competenze devono avere, di quali strumenti devono essere dotati sostanzialmente, e così via. Quindi noi siamo andati con il nostro studio a fare una ipotesi sul meccanismo molecolare con cui questi antiossidanti delle mele svolgono questa azione preventiva sul cancro. E senza termini troppo complicati, nel dettaglio sembra che questo meccanismo sia simile a quello di alcuni nuovi farmaci antitumorali. E questa è una conoscenza che ci aiuta a capire che questi meccanismi sono evidentemente cruciali sia per la comparsa che poi la crescita del tumore. È stato chiarissimo, grazie anche a questo paragone degli spazzini. Mi stai attaccando anche la tosse. Allora, dottore, meglio che prenda un po' di mela. Dottore, lei che la mela la conosce bene, ci può dire se ci sono varietà più generose di altre dal punto di vista nutrizionale? Dal punto di vista almeno dei polifenoli, che sono quelli, sì, che abbiamo studiato noi, noi nel nostro studio abbiamo analizzato tre varietà, che sono la Red Delicious, la Golden Delicious e la Melannurca, che è una varietà IGP tipica della Campania. Ora, gli antiossidanti che abbiamo studiato sono, li abbiamo ritrovati in realtà in tutte e tre queste mele, almeno da un punto di vista qualitativo. Le differenze sono nelle quantità che abbiamo osservato, quindi nel totale la golden, che sarebbe la mela con la buccia gialla per intenderci, sì, è quella che ha un contenuto minore. Ah. Questo si associa poi in realtà anche proprio al colore della buccia, perché certo, è lì che c'è questo maggior contenuto. Infatti la Melannurca nella sua buccia ha un maggior contenuto di polifenoli rispetto alla Red Delicious. Infatti si fanno cuocere le mele annurche e anche l'acquetta della mela serve anche per la tosse. Così mi ricordo, mi aveva detto una signora, pensa, quando avevo partorito Carolina, ero in stanza con una ragazza di Napoli e la sua mamma portava le annurche e mi aveva raccontato questo. Da allora io mangio sempre le annurche. La mia mamma fa sempre le mele cotte, solo, vede, che io sono lontana in questi giorni, non te mi le può curare io, così terapeutiche. Dottore, un'ultima domanda. Cruda, cotta in succo, con la buccia o senza buccia, ci dia delle indicazioni? Arrivano tante domande da parte dei nostri ascoltatori che la invitano a studiare anche la pera, dottore. Qua nascono sempre nuove idee a Cuore Denari. Comunque, la mela come ce la mangiamo? Beh, io la preferisco cruda e con la buccia, però è un fatto mio di preferenza. I composti di cui noi parliamo sono tante molecole diverse, quindi ognuna di loro ha delle caratteristiche diverse e rispondono diversamente al calore. Alcuni di questi composti sono stabili, altri no. Un'indicazione precisa di quale forma, cioè se la mela cruda, cotta o in succo abbia un contenuto maggiore di polifenoli, in particolare di quelli che sono poi coinvolti in questi meccanismi, noi al momento non l'abbiamo, però in linea di massima, visto che alcuni vengono degradati dal calore, la mela cruda e con la buccia dovrebbe essere la forma per avere la maggior quantità possibile. Quindi la buccia lei la suggerisce, perché noi abbiamo un ascoltatore che dice: ma la buccia non è dannosa per la salute? Di solito sappiamo che invece nella buccia ci sono proprio delle... La patata va cotta con la buccia, brava, insegnati lo speciale. E anche se va bene per i bambini. Dottore, siamo probabilmente è quello che preoccupa della buccia è la presenza di sostanze esterne che possono essersi depositate sulla buccia, ma la mela di per sé ha nella buccia queste sostanze che sono sicuramente benefiche. Dottore, allora, anche per lei una mela al giorno toglie il medico di torno, ma noi non vogliamo toglierla di torno, vogliamo che lei torni ancora a Cuore Denari per raccontarci a che cosa sta studiando ultimamente, che cosa bolle in pentola lì da voi. Con piacere. Si ricordi anche le pere, qua molti ascoltatori chiedono di studiare anche le pere, perché al contadino non devi far sapere quanto sia buono il calcio con le pere. Andiamo sempre di proverbi, grazie dottor Facchiano, andiamo a Paolo grazie, da Bergamo. Buongiorno. Prima delle informazioni sul traffico, perché abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: raccontateci cosa che fate nel weekend. Dateci qualche idea, adesso non so potremmo fare tutti quello che farà Paolo, però magari perché no. Paolo, buongiorno, che cosa farà? Buongiorno. Domani io e la mia famiglia, che è composta da me, mia moglie, due figli e un nipotino e un genero, andiamo a imbiancare. Abbiamo preso casa un po' più grande, perché non ci stavamo più in casa mia, siamo in sei adesso. E allora affrontiamo un attimino, come si dice, l'impegno e cerchiamo di sistemare mia figlia e mio genero, che purtroppo bravo, non lavorano. Allora diamo una mano noi e andiamo a imbiancare casa nuova. Bravo Paolo, portatevi la merenda, tante mele mi raccomando e via, e mettetevi qualche castagna dell'ippocastano, esatto. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, ritorniamo sempre subito con le mele, dopo insieme con le mele e con chi le raccoglie. Questo è importante, perché così arrivano belle fresche sulle nostre tavole, ma intanto informazioni sul... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Cuore e Denari. Beams of my reality, the La colonna sonora Richard Sanderson del tempo delle mele. Io ero una ragazzina, sì, infatti, insomma, ce lo ricordiamo tutti questo film, Il tempo delle mele. Pensa, Nicoletta, che riagganciandoci al tema che affrontavamo nella prima parte del programma, in 10 anni in Lombardia i meleti si sono ridotti del 5%, mentre in Italia, è un dato diffuso dalla Coldiretti, la superficie coltivata in generale a frutta è passata da 426.000 ettari a 286.000, quasi dimezzata, una diminuzione di circa il 33% in 15 anni. E a determinare la scomparsa delle piante da frutta è stato il crollo dei prezzi pagati agli agricoltori, che non riescono più a coprire i costi di produzione. Quindi una situazione molto difficile per questa categoria. La raccolta delle mele, sai quando inizia in genere? Ma direi alla fine dell'estate. Alla fine dell'estate, esatto. Molto fermento in questo periodo, soprattutto in Trentino, ma anche in Valtellina, insomma, si lavora molto. La raccolta delle mele ci offre lo spunto per parlare di un'attività non certo poco faticosa, quella della raccolta della frutta e della verdura, che in genere si concentra in periodi brevi ma estremamente intensi. Gli agricoltori conoscono molto bene questi frangenti, tra l'altro siamo in piena vendemmia, la fatica non ha mai fine, le giornate di lavoro sono continue 7 giorni su 7, perché la campagna è sempre esigente. E l'agricoltore è proprio quel profilo professionale non stop che non può mai permettersi di smettere di lavorare né di stare male. Tutto questo sacrificio a cosa porta? Lo vuole mettere in evidenza con una manifestazione che è in corso proprio in questi minuti a Roma, la CIA, Agricoltori Italiani, che denuncia un impoverimento insostenibile delle pensioni dei coltivatori diretti e di imprenditori agricoli professionali. Ci colleghiamo allora direttamente con Roma, dove ci aspetta Corrado Franci, direttore generale del patronato INAC, che è il patronato promosso dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori. Franci, buongiorno, ci sente? Buongiorno, la sento. Eccoci qua. Allora, una conferenza organizzata per dire no, come dicevo prima, alle pensioni dei coltivatori diretti, che sono sempre più poveri. Avete calcolato una pensione mensile per l'agricoltore di 276 euro al mese. Come siete arrivati a questa cifra, Franci? Sì, abbiamo fatto una simulazione partendo dai dettati della riforma Dini. Con la riforma Dini nel 95 è stato introdotto il sistema contributivo interamente e di fatto è stata soppressa l'integrazione al trattamento minimo. Per i coltivatori diretti, che sono fra i lavoratori che hanno versamenti contributivi più bassi, questo comporta una pensione a puro calcolo sulla base dei pagamenti effettuati di quell'importo. E questo apre un problema sociale gravissimo, perché vuol dire che gli agricoltori saranno costretti a continuare un'attività, perché lei capisce bene, gli ascoltatori comprenderanno bene, che con quella cifra non si può vivere. Direi meno di 300 di notte, euro al mese, sì. Siamo lontani da ogni possibilità di vita dignitosa. Certo, con che tipo di proposte vi siete presentati oggi a questo tavolo, oltre a denunciare questa situazione che mi pare evidente, appunto? Che tipo di soluzioni proponete anche al sistema previdenziale per venire incontro a questa categoria che è così importante anche per l'economia italiana? Allora, noi proponiamo di reintrodurre dei meccanismi di equità sociale che in qualche modo tornino ad integrare questa pensione maturata dai contributi versati. E in questo abbiamo trovato convergenza con il Parlamento, cioè l'onorevole Luisa Agnecchi, l'onorevole Damiano, che sono firmatari di una proposta di legge. E che partecipano anche stamattina alla conferenza lì. E che sono presenti alla conferenza e con loro stiamo collaborando su questa proposta di legge, che prevede di abbinare l'importo maturato dai contributi versati con l'importo dell'assegno sociale fino a raggiungere una certa soglia legata al minimo vitale. Quindi questo meccanismo dovrebbe consentire di intervenire sul disagio sociale, quindi di garantire un importo minimo che si avvicini al minimo vitale previsto anche dalle norme comunitarie, individuato anche dall'Unione Europea come importo minimo per poter vivere adeguatamente, e consentire anche di pensare a un ricambio generazionale, perché se l'agricoltore... Esatto, perché pensione, voi stamattina mettete sul piatto anche questa questione, perché? Esatto, perché l'agricoltura italiana è una delle agricolture più vecchie al mondo. Noi abbiamo il 43% dei titolari che hanno più di 65 anni, e se vogliamo che in futuro l'agricoltura italiana possa continuare ad essere competitiva, è importante che gli agricoltori che vanno in pensione possano in qualche modo ritirarsi, anche se rimangono nell'ambito della conduzione familiare, e l'azienda possa essere presa in mano da un titolare giovane, dinamico, pronto a cogliere anche l'innovazione e quindi a mantenere un'azienda competitiva sul mercato e innovativa rispetto certo. anche alle produzioni che si fanno. Mentre oggi appunto, come dire, il passaggio alle giovani generazioni di questa professionalità è un po' reso difficoltoso, immagino anche dal fatto che però questo è un mestiere duro, Franci, a prescindere dalle sì. questioni previdenziali aperte e che state sollevando questa mattina. Sicuramente è un mestiere duro e le politiche dei prezzi non aiutano, il mercato non aiuta da questo punto di vista. Però se creiamo un percorso dove la sostituzione è anche difficile perché l'agricoltore anziano non si può permettere di lasciare l'azienda, non lasciamo nessuno spazio all'innovazione, mentre l'agricoltura competitiva ha bisogno di innovazione anche dal punto di vista degli imprenditori. E insomma, studiamo anche allora se possibile un meccanismo di staffetta generazionale nell'agricoltura che ci sembra quanto mai importante, soprattutto lasciamo a riposare ed andare in pensione con serenità economica sufficiente tutti coloro che lo meritano e che hanno raggiunto i requisiti. Visiti anagrafici inevitabili. Grazie a Corrado Franci, direttore generale del patronato INAC appunto della CIA. Sentiremo come si svilupperà questa battaglia. Tanti detti, proverbi? Sì, perché forse questo ebook o librettino lo abbiamo riusciamo già scritto. A farlo, ma ce ne vogliono, e tanti di proverbi, per cui abbiamo bisogno di capire se i nostri ascoltatori vogliono scrivere questo libricino con noi. Dobbiamo almeno raccoglierne 100, quindi pensa a quanto lavoro. Franco, intanto il suo contributo ce lo dà da Roma. Franco, buongiorno. Buongiorno. Eccolo a voi. Qua. Ma buongiorno. Buongiorno. Io conosco un proverbio che è in francese, ma può benissimo essere tradotto in italiano, che dice in foire pour ma soif, cioè una pera per la mia sete. Sa, quando uno ha sete, se mangia una pera si dissete subito. Siamo anche internazionali, lo mettiamo anche in francese. Grazie a Franco per il suo contributo, aspettiamo i vostri, ci mettiamo al lavoro, adesso andiamo a sentire il giornale radio. Il segnale orario vi è offerto da Tecnologie e logistica di magazzino Modulblock. Avanti anni luce. Se negli ultimi 30 anni vi siete persi in qualche universo parallelo, mi presento. Sono Dylan Dog, quel Dylan Dog. Anche tu ami l'indagatore dell'incubo. Raccontaci perché con una mail a dylandog@radio24.it. E potrai ricevere in regalo una copia di Dylan Dog Diary. Dylan Dog, l'indagatore dell'incubo. Ogni sabato alle 15 su Radio 24. Cuore e denari. E siamo tornati insieme oggi, come anticipato vi portiamo in Sardegna, più precisamente a Muravera, che è un paese sardo in provincia di Cagliari di poco più di 5.000 abitanti, che è finito sulla bocca di tutti per una sorta di regolamento di conti che ha visto protagoniste due ragazze, due studentesse dell'istituto enogastronomico, una bulla e una vittima, vessata e derisa davanti ai compagni, colpevole, se così possiamo dire, di aver pubblicato una foto sui social network che la bulla evidentemente non ha gradito. Il tutto, come succede troppo spesso, è ripreso dai telefonini e prontamente messo poi su Facebook. C'era la foto, no, giro che perché a casa tua e ti ammazzo nel vero senso della parola. E non sto scherzando, ecco. Cos'è anche? Non ho il coraggio di toccarmi, non ho il coraggio di toccarti, non ho il coraggio di toccarti, non ho il coraggio di toccarti. Ecco, le avete sentito le minacce e poi proprio il suono degli schiaffi ripetute. Il video in questione è stato acquisito dalla Procura per i minori di Cagliari, dei carabinieri della compagnia di San Vito, ma nel frattempo, pensate, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in rete. Questo non è il primo e neppure l'ultimo, si teme, episodio di violenza che accende di nuovi riflettori sul bullismo, un fenomeno di cui parliamo spesso, un fenomeno sempre più in espansione nel nostro paese, e lo ripetono tutti gli esperti, ma lo sappiamo anche noi come genitori, come adulti, un fenomeno che abbiamo tutti noi il dovere di prevenire e anche informare per educare i ragazzi e mettere a disposizione tutto quello che possiamo avere per tutelarli. Oggi ne parliamo con Alberto Pellai. Ciao Alberto, medico ricercatore, psicoterapeuta dell'età evolutiva, autore di L'educazione emotiva, come educare al meglio i nostri bambini grazie alle neuroscienze. Ciao Alberto e bentornato. Buongiorno, ciao a tutti. Allora Alberto, il video riprende sguardi minacciosi, insulti, ceffoni, il tutto davanti al branco, impassibile. Sono lì senza muovere un dito, verrebbe da dire così, invece il dito l'hanno mosso perché hanno tutto filmato, ma in effetti la situazione è abbastanza imbarazzante. A me mi è sembrata una cosa brutta da fare, però alla fine è facile dire se c'ero io, quando alla fine anche noi non, magari nello stesso, anche loro non avrebbero fatto niente. Ecco, questa battuta è stata raccolta da un collega del TG1 e ci racconta, no, un po' delle giustificazioni che i ragazzi tendono a darsi. Come non sei intervenuto, il ragazzo dice giustamente, è facile dire perché non l'hai aiutata, ma quando tutti gli altri fanno muro, lasciare il gruppo per fare questo atto un po' coraggioso, a volte tremano le gambe. Alberto. Ma direi che la situazione che abbiamo visto è effettivamente una situazione in cui c'è un conflitto che viene agito, forse più che di fronte a un branco, direi di fronte a un pubblico. Avere un pubblico in una situazione di bullismo permette al bullo di sentire ancora di più la propria potenza e fondamentalmente agisce poi proprio con la consapevolezza che il suo potere attraverso lo sguardo degli altri verrà amplificato proprio perché è stato visto e in qualche modo è stato validato. In una situazione del genere direi poi che i ragazzi effettivamente fanno un doppio fallo, cioè se la situazione originale è che qualcuno ha sbagliato a mettere la foto di qualcun altro su social, riprendere una scena di questo tipo e rimetterla nei social è veramente ricostruire la situazione d'origine del conflitto e riamplificarla, certo, con una modalità che infatti poi è diventata virale. Secondo me questo è un esempio classico di come i ragazzi sono molto superficiali nell'utilizzo dei social. Tutta la situazione qua dentro è legata non a quello che succede nella vita reale, ma a uno spunto che è nato rispetto all'uso che loro fanno delle loro tecnologie. E credo che la preoccupazione che dovremmo avere come adulti è davvero di aiutarli a rimettere il pensiero davanti all'azione, cioè con attività di prevenzione, con attività di gruppo all'interno delle scuole, aiutarli a vedere che tutto quello che sembra così facile da fare dentro un social network, semplicemente cliccando in un secondo e facendo l'upload di una foto su social che poi viene visto da altri, ecco, questo è facilissimo da fare, ma ha davvero implicazioni e conseguenze nella vita reale che devono essere contemplate. Siccome i social annullano lo spazio del pensiero, permettono, ecco, Alberto, di fare... Ecco Alberto, scusami, proprio io vorrei tornare su questo, perché tutti abbiamo le neuroscienze che ci aiutano e nei tuoi libri ne parli diffusamente a capire qualche cosa di più del comportamento dei nostri figli, degli adolescenti. Tu hai detto i ragazzi sono superficiali nell'utilizzo dei social network e dobbiamo aiutarli a mettere il pensiero davanti all'azione. Sono superficiali perché è un po' le neuroscienze ci spiegano anche la ragione. Sì, perché tutto un po' il funzionamento della nostra vita online è molto agganciata, uncina il nostro cervello emotivo, che è il cervello che sente, che ha voglia di divertirsi, di provare emozioni e di eccitarsi, e dissocia invece la consapevolezza legata a che cosa il nostro cervello cognitivo ci direbbe di fare. Proviamo a immaginare nella vita reale molto di quello che diciamo, facciamo e postiamo, e l'avevamo anche detto nella vostra puntata dedicata ai gruppi WhatsApp, molto di quello che noi facciamo nell'online, nella vita reale non lo faremmo, perché il nostro cervello cognitivo inibirebbe alcune, certo, delle pulsioni che invece ci risulta così facile agire senza pensarci nel momento in cui siamo noi, il nostro cellulare, il nostro PC e non abbiamo intorno o davanti a noi le persone di cui parliamo male. Allora, 800 24 00 24, vi ricordiamo il nostro numero verde perché vi invitiamo a condividere con noi le vostre storie, i vostri timori. Tutti noi siamo andati a scuola e quindi raccontateci se anche voi avete vissuto in prima persona attacchi di bullismo, se siete stati dei bulli, perché abbiamo tutti un passato, eravamo forse dei bulletti anche noi? Infatti. Come avete superato questo momento? E se invece siete genitori, raccontateci se avete timore che i vostri figli possano incontrare sulla loro strada dei bulli, o se vi preoccupate che il bullo possa essere proprio vostro figlio. Avete captato magari dei segnali che vi insospettiscono? Parliamone insieme. Intanto abbiamo Umberto dalla provincia di Milano. Umberto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Umberto, benvenuto a Cuore Denari, ci racconti. Grazie, grazie mille. Volevo portare l'esperienza che ho fatto con un gruppo di amici 10 anni fa, sono bravissimo. Abbiamo costituito una società, un gruppo di amici, si chiama Certa Gente del Rugby, e abbiamo sviluppato un progetto che si chiama RugBull, Rugby contro Bullismo, proprio per, non tanto per prevenire solamente, ma per coinvolgere, diciamo, il bullo nell'interno di questo progetto, che è fatto in due parti. Una parte è fatto nelle scuole, lo facciamo nelle scuole medie, dove c'è un questionario, dove raccogliamo una serie di informazioni, sì, specialmente per far capire ai ragazzi la differenza fra uno scherzo, magari anche pesante, e il bullismo, perché spesso non è così chiaro. Poi c'è una seconda parte, svolta invece sul campo, da rugby, in questo caso, perché noi veniamo, nasciamo da lì, dove coinvolgiamo il gruppo scuola, sì, in delle attività con il pallone da rugby, con le regole del rugby, il rispetto dell'avversario, la collaborazione, per includere le due facce della medaglia, il bullo e la vittima. Perché se non c'è un bullo, il bullo c'è perché c'è una vittima. Se riusciamo a far tirare fuori dalla vittima, spesso una persona debole, una persona timida, che ha altri problemi dietro, riusciamo a coinvolgerlo nel gruppo, magicamente sparisce, sì, la vittima, e il bullo si trova, come dire, privo dell'energia per mettere in atto i suoi Grazie Umberto, un bel progetto. Prego. Magari ci scriva, mettiamo anche il link sulla nostra pagina di Cuore Denari. Alberto, una bella iniziativa, ce ne sono tante. Sì, Umberto in realtà poi racconta proprio come attraverso il rugby, che è proprio uno sport di squadra con tantissimi ruoli differenti, dove anche proprio le tipologie fisiche dei ragazzi possono molto diverse fra loro, possono cooperare per ottenere l'obiettivo di squadra, e quindi è uno sport perfetto per fare la prevenzione del bullismo, dove il concetto di base è proprio questo, legato anche al tema dei proverbi: l'unione fa la forza. Come diceva Umberto, se c'è un bullo è perché c'è una vittima e c'è un pubblico che guarda. Se però il pubblico e vittima si alleano, diventano tantissimi di fronte ad un'unica persona che cerca di dettare le regole del proprio potere all'interno del gruppo. Allora, lavorare con il gruppo, molto più che lavorare solo singolarmente sul bullo, sulla vittima, diventa spesso la strategia vincente, che permette di smantellare la dinamica del falso potere che il bullo cerca di instaurare nel suo gruppo di appartenenza. Abbiamo parlato della vittima, che la vittima spesso non riesce a comunicare il suo disagio, la sua sofferenza, né ai genitori né agli insegnanti, ma la ragazza presa di mira in questo caso ha dimostrato molto coraggio. Vero. Nel parlare, nel denunciare, e voglio sottolineare anche coraggio nel perdonare. Ha scritto: mi ha chiesto scuse, l'ho perdonata, ritornerò a scuola a testa alta, sto raccontando tutto, ha scritto, per far capire che le vittime di bullismo stanno molto male. Quindi Alberto, questa è stata una scelta davvero coraggiosa, di maturità di questa ragazza. Sì, e direi intanto è proprio un esempio perfetto di come poi alla fine si può uscire, si deve gestire una situazione di vittimizzazione, si chiede aiuto, si va a testa alta, si dicono le cose che stanno succedendo, e questo permette tra l'altro alla vittima anche di sfuggire alla dinamica della vergogna. Soprattutto nel bullismo online, la vittima, magari per quei 30 secondi o per quell'immagine che la rende vittima, rimane cristallizzata in quell'identità che la fa stare malissimo. Ecco, cambiare le cose, chiedere aiuto, dire che questa cosa non va bene, far confrontare poi la vittima e il bullo nella vita reale, con il sostegno e l'accompagnamento degli adulti, in modo che le cose vengano chiarite per sempre e che dopo aver chiesto scusa ci si possa in qualche modo riallineare in un progetto dove io e te non siamo nemici e possiamo cooperare. Queste sono tutte le mosse che trasformano un errore, il bullismo è un errore, in un'opportunità, cioè nella possibilità di risentire che tra ragazzi e ragazze è molto meglio fare squadra piuttosto che fare la guerra. Allora Alberto, abbiamo Giuseppe da Napoli e Barbara da Prato e poi un professore che ci racconta di un'iniziativa molto bella di cui abbiamo parlato. Vorrei un commento solo rapido con te perché i minuti scappano via, e cioè abbiamo visto che le protagoniste di questo regolamento di conti, che poi è finito sui social e quindi è diventato virale, tutti l'hanno guardato, ci sarebbe mondo poi da fare amplifica una puntata sul fatto che io non credo che siano solamente ragazzi che siano andati a vedere quel video, e perché le cose così violente ci attizzano, perché c'è una sorta di curiosità morbosa che ci porta a andare sempre a vedere o a sentire, no? Più il livello di qualità scende e diventa violento, più c'è interesse, ma di questo parleremo un'altra occasione. Due ragazze sono quindi il bullo diventa bulla, il bullismo al femminile sta aumentando. Prima si pensava che le ragazze avessero solamente, fossero delle bulle a parole, in punta di forchette, quindi avessero dei modi differenti rispetto ai maschi. Adesso anche le bulle diventano aggressive, volano i ceffoni, diventa proprio un'aggressione non solo verbale ma anche fisica. Alberto, un commento su questo aspetto e poi passiamo ai genitori. Guarda, l'aggressività credo che sia proprio una di quelle emozioni e stati d'animo che noi dovremmo imparare a gestire in modo evoluto, un po' sofisticato, proprio da esseri umani. Invece in questo momento è davvero magnificata l'aggressività come forza fisica e potenza, è dappertutto, è nella televisione, è nella radio, è nella maleducazione, è nella prepotenza, che dovrebbe in realtà rendere le persone prepotenti, aggressive e violente delle persone un po' da mettere in un angolo. Invece sono state messe sul podio, conducono programmi, assistiamo quotidianamente. Sono politici, e quindi paradossalmente i nostri figli stanno imparando che essere potenti e non competenti, da, ma potenti fisicamente, aggressivi, è una via per arrivare al successo, e quindi si adattano. È una sorta di scorciatoia, Alberto. Comunque non è un fenomeno di oggi, ho dovuto lasciare l'Italia 45 anni fa, ci scrive un ascoltatore, per un episodio di bullismo. Ma andiamo a Giuseppe da Napoli e subito dopo a Barbara. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta, pochi secondi. Sono genitore di un bambino di 9 anni, è particolarmente seguito, per fortuna, dalla mamma, e quindi un ragazzino forte, va bene a scuola, frequenta una scuola in centro a Milano, una scuola pubblica. È stato oggetto di episodi di bullismo, certamente non gravi, assolutamente senza violenza, ma più che violenza fisica, qualche tipo di violenza psicologica. Volevo solo sottolineare due cose: la totale inadeguatezza del corpo docente della scuola, posso dire del corpo docente delle scuole elementari, ma soprattutto sento sempre parlare di comprensione, ascolto, prevenzione, perdono, ma qualche volta un sonoro cazziatone o una punizione privandola di qualcosa che ai nostri figli fa bene ed è gradita, non potrebbe essere un veicolo utile oltre a prevenire questo discorso? Le famiglie in questo caso proteggono sempre o fanno finta di non vedere. Volevo la vostra opinione. Grazie Giuseppe. Andiamo anche a Barbara e poi un commento rapido di Alberto, ma poi possiamo continuare naturalmente sui nostri social. A proposito, Barbara da Prato, benvenuta. Sì, buongiorno. No, volevo riportare la mia esperienza, che è un'esperienza datata, io ho 60 anni, e volevo riportare questa esperienza di quando ero più piccola e vivevo in un borgo in campagna, dove ero discriminata e, diciamo, soggetta a atti di bullismo proprio perché avevo i capelli rossi, solo perché avevo i capelli rossi. Ecco, sinceramente, ecco, questa è stata una cosa che mi ha un po' accompagnato nel tempo. Poi quelli che superata, Alberto, Barbara, dice sono tatuaggi emotivi, sì, che è un'espressione che io gli rubo in più occasioni, perché racconta bene quanto dei dolori che proviamo quando siamo ragazzi poi siano un po' difficili da sopportare, delle difficoltà. Tra l'altro i capelli rossi, Barbara, sono bellissimi, io glieli invidio molto, sì, e sono sempre più rari. Volevo finire dicendo, poi alle medie sono diventata di moda, quindi diciamo tutti mi facevano i complimenti invece di essere atto di vessazione, per cui alla fine ha avuto il suo riscatto, superato, ho avuto fortuna. E poi un'altra cosa, l'ultima, io sono anche insegnante, insegno alle superiori, e qualche volta devo dire che l'insegnante proprio non si accorge perché durante l'intervallo sono nascoste queste cose, non sono così manifeste come bisogna aprire gli come occhi. Possono sembrare, bisogna veramente parlare con i ragazzi, avere le antenne belle dritte, avere le antenne. Barbara, passo la parola, però non è facile. Grazie per aver chiamato, passo la parola rapidamente ad Alberto, perché voglio poi salutare anche Daniele Manni, che è in linea con noi, un professore un po' speciale, insegnante di informatica, e che tra l'altro nel 2015 è stato selezionato tra i 50 candidati del cosiddetto Nobel dell'insegnamento. Professore, la saluto tra poco. Alberto, un commento all'ascoltatore che diceva: ma una sonora punizione non potrebbe, il cazziatone, ecco, il cazziatone. Credo che Giuseppe abbia ragione, ci deve essere, soprattutto quando poi sono bambini sotto i 10-11 anni, ci deve essere proprio la capacità dell'adulto di far sentire che si fa carico di contenere tutta quell'aggressività agita in malo modo, e quindi il bambino ha proprio bisogno anche di sentire che c'è una competenza potente dell'adulto che non è che non serve ad aggredirlo, ma serve a contenerlo affinché poi possa rielaborare la gravità dei fatti che ha agito. E rispetto a quello che diceva Barbara, credo che un aspetto è che noi dobbiamo educare i nostri bambini al valore della diversità. Probabilmente era l'unica con i capelli rossi, e in quanto tale era diversa, considerata così dagli altri, ma quella diversità vuol dire essere unici e speciali in quel contesto, non essere qualcosa di peggiore o qualcosa da additare col dito. E rispetto al fatto che diceva gli insegnanti spesso non se ne accorgono, è vero, perché il bullismo sta un po' sotto traccia, e per questo è così importante dire ai genitori che se raccolgono, no, la testimonianza dei loro figli rispetto a fenomeni di bullismo nelle classi, occorre un'alleanza tra adulti, i genitori, certo, devono e parlare un'alleanza con tra adulti e anche con gli insegnanti. E noi andiamo a Lecce, dove all'Istituto Tecnico Commerciale 9 ragazzi hanno creato un movimento, si chiama Ma Basta, che è l'acronimo di Movimento Antibullismo Animato da Studenti e Adolescenti, e ne parliamo proprio con il coordinatore, che è il professor Daniele Manni, che finalmente saluto. Buongiorno prof. Buongiorno a voi, i vostri ascoltatori e i bravi ospiti che avete oggi. Professore, il movimento antibullismo è nato proprio l'anno scorso in seguito al tentato suicidio della ragazza di Pordenone, che ricordiamo si era gettata dalla finestra lasciando un biglietto dove scriveva: sono una sfigata, non ce la faccio più. E a questo episodio i suoi ragazzi hanno reagito con questo bel progetto, Ma Basta. Sì, è partita da una chiacchierata in classe, nel senso episodio, io spesso porto in classe quello che succede fuori, trovo occasione per parlare con i ragazzi, e con una buona abitudine che abbiamo nella nostra scuola, ci piace passare all'azione, cioè non semplicemente parlare ma anche fare. E uno dei ragazzi disse: professore, non possiamo fare un progetto su questa cosa, non possiamo fare qualcosa. E quindi è nato questo movimento. Chissà che soddisfazione anche per lei, perché spirito d'iniziativa, certo. Avere un gruppo classe che reagisce così e ti propone delle cose, certo, e vuol dire, certo, che qualcosa ha funzionato nella famiglia, nell'ambiente, a scuola, perché l'unione fa la forza. Sì, perché a me ha colpito molto la considerazione di un'alunna che ha detto: siccome noi per fortuna incrociamo le dita non abbiamo avuto grandi episodi di bullismo alla nostra scuola, quindi si vive una bella atmosfera, lei venne fuori con questa osservazione a dire: ma perché le altre scuole non sono come la nostra, no? Cioè ci sembrano strane leggere queste notizie, queste cose, perché l'atmosfera, l'ambiente che respiriamo qui è completamente diverso. E allora l'idea di lanciare un qualche cosa, perché siamo convinti, assolutamente convinti, ma sto per dire una cosa scontata, che quelle che noi chiamiamo le classi debullizzate, quindi che non hanno fenomeni, che i ragazzi che sono lontani, quelli che noi chiamiamo gli spettatori, che non sono né vittime né bulli, sono la stragrande maggioranza. Certo. Allora, se la stragrande maggioranza si pone da un lato e riesce in maniera, non so come, ma ci tenteremo, a mettere il bullo all'angolo, a far sentire il bullo di disadattato, adesso la dico grossa, a farlo sentire come oggi si sente un pedofilo. Un pedofilo si nasconde, si vergogna, spero che si vergogni, fa di tutto per essere non palese, comprende che c'è una pressione sociale sulla sua figura. Se riuscissimo a fare la stessa cosa con i bulli, mettendolo all'angolo, facendolo sentire un diverso, facendolo sentire lui il malato, quello che ha problemi e che ha bisogno di aiuto, probabilmente qualche risultato verrebbe. Ricordiamo che c'è stato proprio il lancio la sera, su qualche sera fa, del piano nazionale per prevenire e combattere il bullismo e il cyberbullismo in classe, il piano promosso dal Ministero dell'Istruzione, dall'Università e dalla Ricerca, con uno stanziamento di 2 milioni di euro, Deborah, per il 2016-2017, ed è stato lanciato proprio dal ministro Giannini in occasione della firma del protocollo d'intesa con la Presidente della Camera Laura Boldrini al Teatro Palladium di Roma. Professore, voi eravate presenti? Sì, qualche cosa si sta muovendo, quindi. Assolutamente si sta muovendo. Lunedì eravamo presenti, i nostri ragazzi hanno presentato il movimento non tanto alla ministra e alla presidente Boldrini quanto alla platea, perché probabilmente gli organismi statali conoscevano già, ma basta. Prendono ogni occasione per parlarne con i ragazzi. E io quindi sottolineare... mi piace professore, che adesso noi dobbiamo dare la linea ai mercati, torneremo. Mi piace una frase, lei ha detto: noi vogliamo fare e ci auguriamo che tutti questi progetti dalla carta arrivino poi nelle scuole, nelle famiglie, e si riesca ad aiutare a mettere il pensiero prima dell'azione. Professore, ci sentiremo presto, ringrazio anche ad Alberto Pellai e lascio subito la linea a Deborah per i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Italia sì, Italia no, Italia pum, la strage impunita. Sgombriamo subito il campo, perché nulla a che fare questa introduzione che abbiamo scelto con la campagna referendaria in corso. Il basta un sì in questione riguarda ben altro argomento. Basta un sì detto al telefono per cambiare gestore ed essere truffati sulle proprie bollette di gas ed energia. L'allarme non lo lanciano Deborah e Nicoletta da Cuore e Denari, ma lo fa un'istituzione ben più importante, la Polizia di Stato, addirittura scegliendo la propria pagina Facebook, tanto per amplificare, come dicevamo prima, al massimo il messaggio. La propria pagina Facebook, peraltro, si chiama Una vita da social e invita la polizia a fare attenzione, perché già da molto tempo molti consumatori segnalano strane telefonate da parte di società che, nonostante non si identifichino precisamente, si mostrano interessate a ricevere informazioni relative a fatture di luce e gas, riscontrando un prezzo troppo elevato e assicurando così l'attivazione di una tariffa più vantaggiosa, cosa che invece quasi sempre appunto non si traduce nella pratica. Allora, abbiamo voluto saperne qualcosa di più. Tutto questo arriva anche grazie ad una attenta serie di denunce fatta da un'associazione dei consumatori. Buongiorno a Gaia Pinto, legale ad hoc di Frosinone, docente a contratto all'Università di Cassino, che in questo periodo è molto attiva nell'esaminare tutte le denunce che stanno arrivando da parte degli associati. Pinto, buongiorno e benvenuta, grazie. Buongiorno a voi. Come sempre, numero verde aperto ai nostri ascoltatori, raccogliamo anche le vostre testimonianze, le vostre esperienze. Quando apriamo l'universo mondo delle pratiche commerciali scorrette in questo senso, siete sempre molto attivi a denunciare le vostre singole esperienze. Vi è mai capitato che dopo una telefonata commerciale vi siate trovati di fronte ad un nuovo contratto per la fornitura di gas, luce oppure telefonico, che invece voi eravate convinti di non aver assolutamente accettato? E raccontatecelo se volete appunto al numero verde, oppure anche al 349-238-6666. Allora, dottoressa Pinto, proviamo a ricostruire come avvengono queste telefonate. Intanto, come si presenta l'operatore che ci contatta? Allora, intanto bisogna precisare che si tratta di un fenomeno diffuso che riguarda telecomunicazioni, energie elettriche e gas. Le società chiamano gli utenti, non si identificano precisamente e si limitano ad esempio a dire: siamo la sua società del gas, dichiarando di avere riscontrato tariffe elevate e garantendo per le prossime bollette tariffe più agevolate, chiedendo così gli estremi delle bollette. Gli estremi delle bollette che sono dati sufficienti a un cambio inaspettato di gestore. Come avviene poi invece la famosa estorsione del sì, no? Perché per esempio può capitare, non so, che ci chiedano dopo gli estremi della bolletta anche il nostro nome e cognome. Ti chiami così correttamente, noi diciamo sì e lì track registrano questo consenso e poi lo usano come? Reiterano questo sì per quanto riguarda, ad esempio, vuole prestare il proprio consenso all'attivazione di un contratto? Sì. Dà immediata esecuzione al contratto? Sì. Quindi viene estorto questo sì che insieme ai dati forniti delle bollette innesca appunto all'attivazione di un nuovo contratto e quindi di un cambio di gestore di cui l'utente è del tutto inconsapevole. Certo. Oltre a questo sì, affinché, come dire, la truffa possa avvenire fino in fondo, devono essere appunto rivelate anche altre informazioni, a parte gli estremi della bolletta, il numero dell'utenza. Quali sono appunto quelle informazioni che non dobbiamo mai comunicare per telefono, perché altrimenti la compagnia usa questi dati proprio per fare questo trasferimento di contratto, questo passaggio di contratto? L'utente deve sempre astenersi dal fornire i codici POD per quanto riguarda l'energia elettrica e i codici PBR per quanto riguarda il gas e il codice di migrazione per quanto riguarda le telecomunicazioni. Mm. Sono proprio indicati chiaramente in bolletta questi codici? Sì. Sono dei dati indicati nelle facciate delle bollette, sì. Mm. E quindi se li forniamo, ecco, andiamo a spiegare bene i pericoli che si corrono se li forniamo all'operatore che ci chiama. Sì, questo innesca appunto questo cambio di gestore e questo comporta che l'utente si vede arrivare inaspettatamente delle fatture da un altro gestore. A noi è addirittura capitato un utente che si vedeva recapitare fatture di entrambe le società, ovvero la società precedente e la società che aveva effettuato la telefonata. Stavo guardando intanto un ascoltatore che scrive: il vostro servizio criminalizza un settore, sembra sempre che si abbia a che fare con una massa di deficienti. Allora, adesso mi sale un po' il caldo alle tempie, no? Sì. Perché io posso anche capire che... Allora, io adesso che cosa faccio? Lo dico, l'ho detto anche un'altra volta, sì. E anche lì sono stata molto contestata, perché mi accorgo che si tratta di una telefonata commerciale, prendo e chiudo, neanche ascolto quello che c'è dall'altra parte. Perché dopo che tu ne ricevi 10 al giorno, sì, alla fine ti senti anche autorizzata a non aver più voglia neanche di parlarci, no, con queste persone. Assolutamente. Pur nel rispetto totale del fatto che si tratta molto spesso di ragazzi che guadagnano 200 euro al mese e che vivono... e che creano il loro stipendio dalla base dei contratti che portano a casa, per cui, ecco, fermo restando che questo è un fenomeno deprecabile che andrebbe, c'è tutta la polemica sui call center in grande difficoltà. Detto questo, io non criminalizzo nessuno. Dottoressa Pinto, che cosa ne pensa di questo commento fatto da questo ascoltatore? Qua il tema è che si colpiscono qualche volta anziani, persone deboli e fragili, per cui altro che massa di deficienti, perché io che non mi ritengo una deficiente chiudo la telefonata. La pensione ma è a cui un si attimo fa... però cadere. Ecco, se tu trappola. Mi chiedi nome e cognome e questi registrano, ti chiami Nicoletta Carbone, tu dici sì, e questi lo registrano e usano questo consenso per far finta che sia stato approvato un contratto nuovo, questa parliamo è una truffa. Ecco. E poi c'è anche da dire che questa truffa viene effettuata secondo tanti punti di vista. Il codice del consumo afferma che una proposta contrattuale, ovvero una proposta effettuata per telefono, è tale, ovvero è comunque da intendersi quale proposta contrattuale. Se a questa non viene, cioè se a questa non segue un'accettazione per iscritto da parte dell'utente, quel contratto non è in vigore tra le parti, non produce effetti. Quella proposta rimane comunque una proposta commerciale fine a se stessa. E allora loro come fanno a far attivare un nuovo contratto, dottoressa Pinto? Loro raggirano la normativa in realtà, cioè disattendono quello che è la lettera del codice del commercio. Il codice del commercio afferma espressamente, peraltro ricevendo... Del commercio o del consumo? Del consumo, chiedo scusa. Peraltro ricevendo delle direttive comunitarie. Che L'offerta deve essere seguita da un'accettazione. Certo. Cioè, loro dicono durante la registrazione vuole dare immediata esecuzione al contratto e registrano quel sì. Anche qui è una truffa, non può essere data immediata esecuzione al contratto. Mm. Il consenso del consumatore, dell'utente, deve essere espresso. È chiaro. Allora, è tutto molto interessante quello che abbiamo sentito. Il tema è capire anche le autorità preposte al controllo di tutto questo come si stanno muovendo. Direi di andare a sentire i suggerimenti per chi è in viaggio, perché poi abbiamo che ci racconta appunto tutto ciò una esponente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, l'antitrust, che è l'autorità che vigila proprio sul mondo delle pratiche commerciali scorrette, un'autorità che peraltro è molto rigida, molto attenta, multa, fa multe e commina sanzioni appunto in maniera enorme, ma non cambia nulla, per poi non parlare dell'altro grosso capitolo del registro delle opposizioni, al quale migliaia di consumatori in questi anni si sono iscritti senza nessun risultato, perché le società riescono comunque a bypassare anche questo ostacolo. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Cuore e denari. Allora, mi fa piacere che molti ascoltatori sono dalla nostra parte, ci sostengono nei commenti un po' coloriti e vivaci che abbiamo fatto prima. Non siamo una massa di deficienti, questi call center molto spesso sono veramente insistenti e alla fine mettono in pratica delle iniziative commerciali che definirle scorrette è anche un po' gentile, direi che è gentile, perché sono veramente al limite della truffa. Basta un sì detto al telefono per cambiare gestore ed essere truffati sulle proprie bollette di gas ed energia, lo ricordo ancora, è stato l'allarme lanciato dalla Polizia di Stato attraverso la propria pagina Facebook Una Vita da Social, invitando tutte le persone a fare attenzione. Eppure, anche se tu metti in campo tutte le iniziative possibili di attenzione, molto spesso cadi ugualmente in queste trappole. Ti chiedono, lei si chiama Giovanni Rossi, tu dici sì e quel sì viene utilizzato per come un espresso consenso appunto all'attivazione di un nuovo contratto. Indaga su tutto questo, lo fa da tempo, da anni, combinando anche tante multe. L'autorità garante della concorrenza e del mercato, con noi questa mattina Jacopo Berti della Direzione Industria Primaria, Energia, Trasporti e Commercio dell'Antitrust. Berti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Situazioni che conoscete benissimo, qual è la posizione dell'autorità su queste pratiche scorrette? Come le state monitorando? Allora, l'istituzione è in prima linea per fronteggiare questo fenomeno conosciuto e certamente deprecabile, ecco, mi veniva la parola. Noi lo conosciamo da tempo, negli ultimi anni abbiamo la nostra azione è vigorosa su questo fronte, proprio perché abbiamo tantissime segnalazioni di consumatori e associazioni di consumatori su due fenomeni: le attivazioni senza consenso, quindi, e le attivazioni dove il consumatore è stato ingannato, perque non c'è con solo il consenso estorto, le chiamiamo con il nome, sì, con l'informazione su che si prospetta un'offerta meravigliosa e poi in realtà non è tale, e il contratto poi dopo il consumatore se ne accorge soltanto quando è stato attivato. Questi due fenomeni sono stati oggetto di nostre istruttorie, di sanzioni e di tuttora di procedimenti in corso nei confronti dei principali operatori di mercato. Devo essere sincero, penso anche dai dati che ho a disposizione che il nostro intervento abbia quantomeno contenuto il fenomeno negli ultimi tempi, perché le principali imprese hanno poi modificato le procedure di acquisizione e quindi di fronte non ci dovrebbero essere più questi fenomeni così massivi. Residono certamente sul mercato alcune imprese che ancora non seguono queste regole. Eppure questa denuncia fatta dalla Polizia di Stato sorprende, se non altro perché, dottor Berti, le pratiche da una parte, come lei diceva, diminuiscono, qualche società si sta comportando in maniera un po' più corretta, dall'altra c'è invece chi rende più sofisticate queste pratiche di accaparramento di clienti nuovi, perché questa storia del registrare il sì a fronte di una determinata domanda e poi utilizzare questo consenso come appunto assenso alla sottoscrizione di un nuovo contratto, veramente è un po' come quelli che dico, è un po' come i montaggi televisivi, no? Quando li fai ovviamente a seconda delle tesi che vuoi dimostrare. Detto questo, dottor Berti, questo è un tema nuovo evidentemente da monitorare anche per voi. Sì, questo è un tema nuovo, come c'erano le sottoscrizioni false un tempo e via dicendo. Diciamo, quello che forse è importante dire in questa sede è qual è lo standard che noi richiediamo al mercato e quindi ci attendiamo che le imprese seguano a tutela del consumatore. Cioè, dopo la registrazione telefonica, noi proprio perché soprattutto nel mercato elettrico c'è una forte asimmetria, quindi per conoscere bene le offerte, le condizioni dell'offerta, le imprese devono comunicare l'offerta al consumatore e successivamente fare un'ulteriore telefonata di conferma che sia stato ricevuto il plico, sia stato ricevuta il supporto durevole, che è un termine tecnico, ma che significa quella registrazione che il consumatore può riascoltare per verificare se era lui che aveva dato effettivamente quel sì, se quel sì era stato genuinamente acquisito. A meno che questa registrazione non venga manomessa prima che sia resa disponibile. Sì, però la procedura corretta è che dopo aver inviato il plico e la registrazione, a quel punto il consumatore deve essere chiamato a fare un'ulteriore conferma del suo consenso. Certo. A quel punto la procedura è completa. Questo è lo standard minimo che noi richiediamo e che sul mercato dovranno adottare tutte le imprese, perché chi non lo adotterà sarà passibile appunto di avvio di procedimento e di sanzione. Mm-hmm. Ed è la prassi che ormai stanno seguendo i grandi operatori. Quindi diciamo, io non sono fiducioso che nel medio tempo, e non dico breve perché sennò poi sarò facilmente smentito, ma nel medio tempo almeno per quanto riguarda l'energia elettrica, perché è un mercato particolare dove queste pratiche sono molto insidiose, mm-hmm, il problema dovrebbe essere contenuto, certo, effettivamente a questioni marginali. Dottor Berti, peraltro in quale settore sono particolarmente attivi? In passato erano le telecomunicazioni quelle che riuscivano a bypassare anche tanti problemi. Adesso nel gas e nell'energia dove sì, ci sono? Nel gas e nell'energia è dove il fenomeno è stato più acuto, perché siamo in un momento di passaggio tra il mercato regolato e il mercato libero. E quindi è un momento delicato in cui è importante che tutti i benefici della concorrenza arrivino ai consumatori e non invece le distorsioni, in questo caso di acquisizione del consenso. Il mercato delle telecomunicazioni è un mercato più cioè maturo, nel senso che la concorrenza c'è da tempo, il consumatore ora conosce per esempio quali sono i parametri, i gigabyte, le cose, quindi può capire meglio nell'energia tutte queste l'informazione, la consapevolezza sulle questioni tecniche, cos'è, certo, il kilowattora, quanto sono i propri consumi, quanto si paga, eccetera, eccetera, sono informazioni che tutti noi abbiamo ancora difficoltà, non sono entrate nella nostra, diciamo, conoscenza comune, e piano piano anche attraverso questa educazione il consumatore potrà scegliere le offerte migliori. E intanto dobbiamo andare avanti invece con le denunce. Allora, ci sono tanti ascoltatori che stanno raccontando anche come si difendono da questo stalking appunto attraverso dei call center. Anche da questo punto di vista abbiamo analizzato in passato il fenomeno. Fra tutti quelli che sto leggendo, Nicoletta ne vede tanti, c'è quello che adesso risponde in cinese inventato, non mi hanno più chiamato, quindi una sorta di Gramlo come anche quello se che fa anche se poi quando ti arrivano queste telefonate in realtà c'è un emettitore di telefonate automatico, non è che l'operatore sceglie i numeri di telefono da chiamare. Detto questo, il nostro programma sta volgendo al termine, grazie a voi tutti per tutte le testimonianze che ci avete mandato. Ce la faccio magari Alessandro da Milano da sentirlo. Alessandro telegrafico, cosa le è successo? Sì, buongiorno, intanto complimenti per vada che stiamo chiudendo la trasmissione. Due volte mi hanno truffato, una gli operatori dell'energia con l'intento di cambiare, adeguare la bolletta, mi hanno spinto a sottoscrivere un nuovo contratto, la seconda volta sempre la stessa società, certo, e mi ha contattato telefonicamente. Le dico che la prima volta mi sono accorto, ho chiamato il ragazzo che me l'ha fatto fare, avrei detto che li avrei denunciati. Mi hanno chiamato con un numero anonimo e mi hanno minacciato. Ecco qua, Alessandro, la ringrazio. Insomma, fanno così e lo chiamano adeguamento del contratto. E invece ne fanno sottoscrivere uno completamente nuovo, non sempre vantaggioso. Abbiamo terminato, torniamo lunedì. Grazie a Jacopo Berti, a Gaia Pinto. Nicoletta, buon weekend. Anche a te. Con le castagne. Buona giornata a tutti.